Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Venerdì scorso è stato presentato, come ormai da qualche anno a questa parte, l'annuale rapporto dell'Osservatorio Blockchain and Distributed Ledger del Politecnico di Milano, che fa il punto sulla diffusione, sullo sviluppo di questa famiglia di tecnologie informatiche nate, come ben noto ormai, all'indomani dell'invenzione del Bitcoin, che è la criptovaluta che è stata il primo esempio di applicazione della blockchain. Ed è piuttosto evidente dai dati, per quanto ancora non si possa parlare di un settore maturo, come il 2019 sia stato un anno di svolta. Per esempio, si contano nel solo 2019 488 progetti blockchain e distributed ledger avviati nel mondo, che è più o meno l'equivalente di quanti ne erano stati avviati nei tre anni precedenti. E allora cerchiamo di andare un po' più in profondità, di capire un po' meglio che cosa è successo, con l'aiuto di Valeria Portale, che è co-direttore dell'Osservatorio Blockchain e Distributed Ledger del Politecnico di Milano. Buonasera Portale, benvenuta. Buonasera. Allora Portale, come prima cosa mi pare ci venga l'obbligo di ricordare, almeno in linea di massima, che cosa sia una blockchain. Allora, una blockchain è una rete di nodi che condividono una struttura di dati, cioè un registro distribuito, nella quale è possibile aggiungere informazioni sulle transazioni effettuate attraverso delle regole condivise tra tutti i partecipanti. In poche parole, è una rete in cui non esiste un ente centrale, ma gli attori si muovono attraverso meccanismi di consenso in assenza di fiducia. Possiamo definirlo, se vogliamo, un database anche distribuito, dove i dati non sono di un soggetto in particolare, ma sono di tutta la community, e solo col consenso di tutta la community questi dati possono essere modificati. Può essere un'altra definizione valida? Esatto, cioè il nuovo paradigma che queste tecnologie stanno abilitando è il paradigma dell'Internet of Value, ossia un sistema come Internet che ci permette non solo di scambiarci informazione, ma anche di scambiarci del valore senza intermediari, cioè senza una banca o una terza parte che ci permette questo trasferimento di valore. Ecco, un valore che non è solo monetario, ma anche un asset, che per esempio è un diritto di proprietà. Certo, chiarissimo. Allora, senta, che cosa è cambiato nell'ultimo anno rispetto a quanto è accaduto precedentemente? Allora, dobbiamo dire che questo 2019 è stato particolarmente importante. Perché? Perché è stato decretata che le tecnologie blockchain e distributed ledger sono una delle tecnologie portanti per il futuro, ossia se prima c'erano molti scettici che dicevano non c'era, che non sarebbe stato... Consuma troppa energia, è troppo lento, non fa abbastanza, esatto. Tutti i problemi che si stanno risolvendo uno dopo l'altro, fondamentalmente. Esatto, e ora ci sono startup, provider, istituzioni, governi e anche le grandi aziende del mondo del web che ormai hanno effettivamente iniziato a investire in questa tecnologia e la vedono come una delle tecnologie per il futuro. Quindi ormai, diciamo, non ci sono più dubbi che questa sarà una tecnologia importante e ne sentiremo molto parlare nei prossimi anni. Ecco, però c'è ancora una grande predominanza di soggetti che stanno producendo nuove blockchain, diciamo così, nuove piattaforme, e ancora poco si usano quelle che ci sono, o sbaglio? Esatto, siamo, diciamo, in una fase ancora non di piena maturazione della tecnologia, quindi non è che si sta convergendo verso un'unica piattaforma come è stato Internet nel mondo precedente, ma ci sono tante piattaforme che si stanno costituendo, tante, forse anche troppe piattaforme. Forse sì, che testimoniano anche che in alcuni casi non si è ben capito cosa sia la blockchain. Applicazioni però di particolare interesse che stanno emergendo ce ne sono? Ce ne sono tanti, sicuramente il mondo finanziario è quello che è partito prima, quindi soluzioni per la gestione delle transazioni interbancarie, ma poi ci sono tante applicazioni nell'ambito della tracciabilità, della logistica e poi nella pubblica amministrazione. Ad esempio nella pubblica amministrazione abbiamo i sistemi per la gestione dell'identità, la self-sovereign identity, in cui l'identità viene gestita e controllata dai singoli utenti. E infine tutto quello che sono gli algoritmi certificati, che permettono, ossia, di verificare e dare garanzia che un dato algoritmo verrà effettivamente eseguito. Che faccia quello che promette, soprattutto. Uno degli aspetti che ha segnato 2019 è stato il fatto che si sono mossi degli attori di grandi dimensioni. Quali sono e cosa sta succedendo anche qui? Allora, sicuramente il fatto che Facebook, insieme ad altri all'inizio 28 attori, che poi si sono ridotti a 21 sì. attori, abbia annunciato Libra, ossia una nuova criptovaluta costruita su una nuova blockchain, diciamo che ha risvegliato un po' l'attenzione verso queste tematiche, perché come sappiamo la forza di Facebook, attore che coinvolge oltre 2 miliardi di persone, ha sicuramente un impatto rilevante. Libra dovrebbe arrivare, è stato pubblicato il white paper, cioè il paper che descrive il progetto, dovrebbe arrivare nella seconda metà del 2020, ok? E sicuramente c'è altissima attesa verso questa. Quindi si potranno fare acquisti utilizzando questa moneta direttamente sui social, e questo ha fatto sì che forse altri attori di carattere finanziario abbiano cominciato anche a preoccuparsi e si stiano dando una mossa, lei dice. Esatto, diciamo che l'avvento di Libra, e non è solo Facebook con Libra, ma anche Telegram, Fronton, ha un po' risvegliato soprattutto le banche centrali, che si sono chieste, ma è Facebook e Telegram che deve... Sono loro pazzi o siamo noi in ritardo? Esatto, e quindi diciamo che tutti i governi stanno iniziando a accelerare nella decisione, anche se muoversi verso queste tecnologie che permettono di rendere la moneta più smart. Quindi per esempio la Cina ha annunciato di lavorare e di star lavorando proprio su una moneta, una cryptocurrency, quindi una criptovaluta cinese che verrà gestita attraverso queste tecnologie. E l'Italia in questo panorama come si sta comportando? Direi che l'Italia si sta comportando particolarmente bene e diciamo che ci sono tanti sviluppatori, una community molto importante, sta lavorando in particolare sul tema della tracciabilità di filiera e del Made in Italy. Perfetto, ecco, anticipo che poi faremo degli approfondimenti in futuro su questi temi. Va bene, allora grazie Valeria Portale. Grazie a lei, grazie a tutti. Ci fermiamo qui, cari ascoltatori, a voi tutti buona serata.